Natale 23. Cos'è? Buonasera. Grazie, bravo, buonasera a te. Tu uscito senza sera. Vorrei prendere appena. Caldo c'è vero. No, quel vento è un vento puzzinoso. Chissà che ha toccato oggi. Un po' di scirocco c'è. Ma almeno rinfresca, dai, lascia fare. Sì. Maestrale un po' caldo. Ma ha messo acqua oggi, chissà un dio piovente. Ah boh, dov'è che se ne può scendere? Se lo sta portando via. Alla parte di sopra, a noi non ci bagna. Ah, lasciamo dentro casa io, quindi. Se lo sta portando via il vento. A noi allo si bagna, siamo dentro casa, per cui faccia dove vuole, faccia l'anima sua. Tu sai che non piglia un'altra anima. Allora, com'è questa radio? Amplificata con appena di eco. Va bene, non disturba l'eco. A me è più forte, sì. Ma va benissimo. E allora mi dice, allora lascio così. Non la so che, perché ho cambiato apparecchio. Va benissimo, lascia così. Anzi, sei più forte. Perché mi sono messo sotto accesso ieri notte. Benissimo, che si intende via con la zebra pura. Infatti, allora. Per quello mi sento un po' su, Cazzo. Li portate a ogni varia. Che andiamo e andiamo. Allora, cazzo, non so io. Cazzo, chi lo sai che ha cazzo io? Un cazzo di giambura a parecchio, cazzo. Poi è di giambadurissimo. Certo. Hanno dato nel giambiruno. Cazzo, ma faccia il movimento, capito? Cosa vuoi fare? Io sto arrugginendo, adesso. Andare, va bene, va bene. È così. Ma poco fa c'era il sorello su 10. Cazzo, stavo facendo un basso. Quasi quasi non riuscivo a copiarlo. Senti che è sceso il fulmine. Sì, è stato un fulmine in antenna. La vera crepata. Ma l'ha bruciato anche due televisori, Ma è te caduca. Quando fa la stessa cosa, bisogna distaccare tutto quando cade per temporale. Allora, non ho sempre detto. Quando è lui, c'ha l'antenna che lì è una cosa, bisogna attaccare un po' di roba, bisogna attaccare per un po'. E invece la c'ha tutto attaccato, tu? Ha bruciato tutto. Veramente io qualche volta l'ho distaccata. Ma c'ho il mediatore a centrale che distacca tutto automaticamente. Allora, questo è a 4, il deviatore, però in mezzo c'è una specie di transistor grosso. E io quando c'è il temporale lo metto in centro e non entro ai baracchini. A me si stacca tutto da solo, si stacca. Quindi a me no, anche se entra, si diviene da dove non c'è nulla, se ne va. Infatti c'è io, ce l'ho fatto, quello centrale è neutro, capito? Si ferma lì e c'è questa specie di transisto. Mi sembra un transisto quasi, chissà cosa è. Lo metto lì e non senti nulla quando lo metti in mezzo. Io invece mi sposto negli affari dove non non c'è nulla, quando c'è questo temporale così, giro la metto dopo non c'è nulla. Si può fare, sì. In modo non c'è niente attaccato, per cui ma c'è dove. Però magari non trova il baracchino, ma troverà anche la TV e tante altre cose, capite? Come fai a distaccare tutto quando c'è il temporale? No, i televisori sono a conto loro, no, non ce li ho io attaccati qua. I televisori sono a conto loro. Quindi anche se ce li ho sotto le antenne televisori, non gli fa nulla perché non intacca. Ma poi scenderà anche sulla corrente elettrica, cagato. Non è che scende solo sulla antenna. Può essere anche sulla corrente elettrica, cagato. Ma io nell'antenna su del televisore non ne ho sulla corrente elettrica. Hai capito? Non ce l'ho sulla corrente elettrica. Il mio è isolato. Ebbene, funziona a due vetri, funziona il televisore. Sì, ma non entra nelle... perché ce l'ho isolato, ce l'ho. Quindi se entra sulla corrente, scende direttamente sulla massa, scende. Io ho la massa attaccata. No. Ma non c'era mai niente, è un macello, sei già con Fede che ha per temporale, va, e c'è anche il dubbio, c'è una volta che devo fare, no, l'apparecchio già, il direttore dell'antenna già lo metto in centro, per cui non entra ai baracchini, capito? Poi se dovesse entrare nel coso, va direttamente a scaricare sulla massa che c'ho, e scarica fuori, infatti io ho la massa attaccata al baracchino, capito? C'è la massa attaccata, per cui dovrebbe scaricare sulla massa. Io ce li ho su tutti e due attaccati. Se dovesse si prende la direttamente dalla massa e scarica fuori, Un anno a Mario Mao c'era temporale la sera, ha distaccato il piede e il piede andava a finire attaccato al muro, l'ha bucato in mezzano, l'ha bucato sotto, come è scelto, l'ha bucato in mezzano, l'ha già fatto il mio buco. No, a me quando gli ho messo questa cosa qua io non ho staccato più nulla, però ho messo i due girati dove non c'era nulla. Ma giusto che si è caricato innanzi alla piastra di ottone, ha scaricato sopra lì e c'è sceso giù. Infatti c'è anche la massa a terra, che se l'hai fatta tu, mi sembra, no? Lì, dalla piastra, è entrata dalla attaccata alla piastra, si metterà giù e ha caricato in terra gli ossi, pura. Quello vuol dire molto, quello vuol dire molto. In campagna ce l'avevo così, in campagna ce l'avevo così, avevo messo la massa un picchetto a terra, e per cui non ci successo mai niente. Più errori, non mai nulla, mai nulla, perché c'è la massa, capito? E qua c'è anche qua la massa. E per cui sono tranquillo, certo magari ci sarebbe stato la massa come tre, ci sarebbe stato meglio. Oh, ma tu dovevi aver fatto un piccolo cerchio, mi ha fatto. Nella piazza ha fatto un piccolo cerchio. Però se farà da Roma a te si è farato. Molto profondo l'hai messo la piazza. E ce l'ho qua lì a faccia di Degoso, giri dall'affare e lo vedi com'è. Il picchetto sarà già su 60 centimetri giù, il picchetto nel terreno ce l'ho messo a 60 centimetri, deve scendere a un metro, scende. E allora è buona la massa, dai. Dai, buono. Io alla massa al baracchino l'ho fatto diversamente, ecco. Perché non aveva. Allora ho messo una piastra qui al muro, sull'angolo. Però c'è un filo che va direttamente al muro della finestra. Qua. E più di quel muro della finestra viene all'angolo, c'è un vasetto grande, sarà 80 centimetri, è largo, un vaso di quei grandi in terracotta, riempito di sabbia e terra, un pezzo di ferro in mezzo, mezzo staccato, e la massa staccata quel pezzo di ferro, così va al baracchino, capito? Così la faccia la massa, e quel vasetto, un vasone quello lì. Ogni tanto mi metto un litro d'acqua, No, già va bene, non bugia. Io l'ho fatto, insomma, fatto un coso, e più li attaccati ai cosi, c'ho i cavi attaccati di massa. Ecco cos'è. Si è riscaricato, si è scaricato tutto sopra con la piastra lì. Beh, ci stava sulla piastra di ottone, sulla piastra di sarà 40 centimetri per 30. Ho messo due tassini, l'ho attaccata al muro, la massa, e la massa l'ho attaccata lì a quelli della sala, capito? Perché lì c'è l'antenna alla scopo, quella piccolina. La fanno bene, quello è importante di fare geggia. Ho messo due apparati, ho tutte e due le masse, ne ho altri due no, ma questi due vado nei grossi, ho le masse attaccate anche, quindi se la scaricare la scarica tutto sulla piastra. Io ce l'ho tre attaccate qua, però il cavo, a tutte e tre c'è un pezzo di cavo della massa, di quel vasetto, capito? Fa direttamente alla vite dell'antenna, capito? Sì, no, io ho le masse attaccate da un filo all'altro, quindi a voglia, e poi scarica sulla piastra. Già va bene allora, già va bene, beh, a te sei venuto bene perché tu c'hai il consiglio dietro, e per cui hai fatto scendere il capo da su a giù a terra dietro, no? Sì, dalla finestra al buco che avevo fatto, e poi l'ho portato giù attraverso il marciapiede, arriva per la braccia nel marciapiede, e poi scende in mezzo alla terra. A un metro dal marciapiede, e poi scende da 60 centimetri, ed è lungo un metro il coso che gli ho messo. Già va bene, no? È una massa a terra, va benissimo, capito? La massa a terra va benissimo, e per cui a pensare che in campagna ci ho messo un picchetto grosso di quelli dei fari della luce, no? Quando hanno messo i fari della luce qua, gli ho chiesto a quella luce, mi dava quel palo e un pezzo di mezzo e ferro, perché pesava un mese, lungo 70 centimetri a punta con le ali. Cazzo, il capo proprio grosso di ottone dall'antenna fino alla mamma. Ecco perché non è successo mai niente in campagna, per quel motivo, perché c'era la massa ben fatta. E c'era la cabina, perché c'era la cabina e faceva massa pure alla cabina. Uno di quei picchetti lì ce l'ho messo io. Cioè già a 60 centimetri, ma più quel picchetto lì era da un metro, allora già attaccato una massa. sono chiudi. A buia si carregheggia. E a buia. E come scarica? È la massa più perfetta è quella lì. Sì, la massa più perfetta è quella, questi qua. Sì, può aiutare, ma no, non tanto, vai. Però già fa la massa, vuol mettere poco a poco, vai. Per cui è più distacco la deviatore e si monta la capito, vai. No, il deviatore io quando c'è temporale, il deviatore le giro sul falso che non c'è nulla. Che non ne sono attaccati, quindi no, non fa nulla, non fa, no, non è successo mai nulla, quindi non mi preoccupa giù a Hassan. E beh, infatti. E poi gira la roba dove non si è attaccato il piede, che è libero, può attaccare anche lì. E lì, nella giro lì che non ci sono i piedi attaccati, non c'è capo, non c'è nulla. E gli giro verso il terzo, il giro. Va bene, va benissimo. A fuori là. Mi scendo queste cose, maledette. Un anno, via grazie a cielo, si stava nel Sisla, c'era un amanto qua, non mi ricordo di chi era quello lì, è sceso, ha bruciato, ha affacciato anche la cabina dell'ascensore lì. Ha fatto staccarsi dalla porta. Sì, so di chi era, so di chi era. L'ha bruciato l'antenna, l'ha bruciato. Ma più non so cosa ha fatto di danno sulla cabina. Ma era a volte un fulmine. E a fare quel danno? Già lo credo che era a volte di... Infatti, c'era di baracchia la macchia qua, e stavano dando la coppa a quello lì, stavano dando. Allora, sono cose che possono succedere, capito? E c'era anche la massa attaccata alla massa della corrente elettrica, capito? Però è sceso lo stesso, ha fatto un po' di danno. Io gliel'avevo detto, metti una massa attaccata all'antenna, mettergli una massa che arriva a cosa della cabina. E se scende, scende e scarica, lì scarica, sulla massa scarica. Invece non ha fatto nulla, l'ha bruciato l'antenna, l'ha bruciato. Ah, carica a volte però io. Forse. Ha accorto anche a lunga rossa, lì a Santa Valentina. Dice a te era lunga rossa, no? E infatti. Quello lì infatti c'aveva la massa, l'avevo scattato tutto io, le apparecchiature lì. E la massa l'avevo messa a cosa? Un cavo grosso, direttamente alla massa dell'ascensore. E non è successo mai niente per quello, anche lì. Bisogna attrezzarsi un po' per attaccarle le antenne. Le antenne dovrebbero essere isolate, sono isolate, non entra il fumo nelle antenne, quindi non dovrebbe fare nulla. Ecco, ma la massa va controcircuitata, quella lì, così che non dovrebbe fare niente. E beh, c'è di che entra da Roma a te, c'è entrato il fumo. La zocco. Era forte quello lì, a fare quel danno era fortissimo. E vuol dire che doveva scendere lì, come scendi in tanti altri posti pure, capito? Fatta male, da giuvito ero in mare, da giuvito ero fulmine, farà 30 leva, ci verrà a da niente, a foglio, a zero mentre l'abbia fatti. Abbiamo fulminato tutti quanti. Vedi c'è una grossa massa, penso che non faccia niente, penso io, salvo che sia vicino, ma se scende lontano non penso che faccia effetto. No, non era lontano, era quasi vicino alla spiaggia, era. Quando ha giurito mi mettesse che lontano subito, ci ho fatto allontanare un po' di niente, ci ho fatto allontanare subito. canzone e musica mi rende. Hai mollato un cane che tu vendi, l'hai mollato un camminente. Non avevo una cosa buona, no, per carità. Non ti farà, ovvia. Sai che se ci fossi, però tu trocco dell'albero, se lo fai da fessi, se lo fai, che tu farà. Aspetta, ci metto un albero, che grande fa la profumine. La becco in due, la becco. A più ho pigliato fuoco, buro, l'albero. Ma era una quercia mia, l'ha aperta in due. Infatti, quando c'è il separato, non si mai faccio mai, certo, gli alberi, perché è pericoloso. So. Veramente sì, no, mettiamoci sotto qualche qua, già resiste l'albero. Ammo! Non andi sotto, no. Fate base vedo, niente, niente, due fasi. Basta! Hai visto come spacca? Allora, adesso, arrasti bottezza, sopra la cosa bottezza, come dei fulmini, così. Ma l'unica cosa è trovare un riparo, se c'è un coso sotto un portico, sotto un coso, basta che sia riparato, non sotto l'albero. Se c'è un conveniente, si può sotto l'albero, no, no. Sai sotto i nodi, sai più bene. Invece, quando mi sai che sotto l'albero, che l'ha bruciato l'albero, l'ha bruciato. Vabbè, se c'è sempre la negozione, è chiaro che non conviene a metterci sotto l'albero. Ma se piogge, la può mettere, capito? Però se non ci sono là più suoni, si può mettere sotto l'albero. Sì, se piove, va bene. Ma se ti fanno Roma stesso, se c'è il portico, ti metti sotto al portico, ma non te ne bocca nulla. Ecco cosa è, invece di stare sotto all'albero che ti rileva. Insomma, o morirà, o morirà il drone, qui si è. E allora, immagino che abbiamo una trecciurata, quando sto con mio bel sotto al portico, che non me ne tocca Eva. È un crimine. Se si ripara, bisogna ripararsi, vai. È un crimine. Però sotto l'albero è pericoloso, molto pericoloso. Specialmente quando c'è il temporale è grosso. Quando ero con mio padre, chiedami Giorgio nell'orto. E mio padre ha detto, non ti puni sotto all'albero, vieni con me. E ci siamo messi dentro la casetta. Sono aspettato che passasse il temporale. E sotto la casetta, vicino farà duro fulmine. Però nella casetta non è entrato. Infatti, poi basta attaccare la iarna, il botti, bisogna attaccare tutto, se non entro, dai. Però bene, così ho sentito io, bisogna fare così. Nel tuo caso bisogna chiudere tutto e sei più tranquillo. Sì, infatti, dobbiamo fare così, chiudere tutto e rimanere dentro, sino che non faccia il temporale. Non sei mai tranquillo, non sei mai tranquillo. Poi specialmente in questo periodo che fai questi temporali brutti, è molto pericoloso. Certo, ci sono pericolosi, non faccio un cane che mi intendi, il primo drone se ne andrà fuori, si sicuri, 30 raduccia si sicuri, ci rimani tra Ragliana e Raduccia. Ci gua! Ha paura! Ha paura del rumore, anch'io avevo un ufficiale che è così, però non temevo ai suoni. Certo, un giorno abbiamo portato a una festa, la Banari, e avevo il braccio, cazzo, dalla porta perché c'era il fuoco dell'artificio, cazzo lì, oia! Voleva volare, cazzo, dallo spavento, e dalla porta come si diceva, i suoni aveva paura. No, quello che ce ne voglio io, che sai, no, nei tuoni, di nulla aveva paura. Drummond di era e Drummond è rimasto, rimania. No, non gli faceva nulla a lui. E non ci mettono, ma io... Oh. quando l'abbiamo preso eravamo a vedere, guardando un pochino l'artificio, e questi rumori fortissimi, ha avuto paura dalla volta, come sentiva la bomba, uno sparo, si spaventava e gridava. Oh, io me lo sono portato sempre con me anche a vedere i fuochi. Oggi visto che non temeva nulla, non temeva, anzi, si muniava e dalle i fuochi. E poi se ci schiacciò. Questo l'occhio faceva con l'effetto, poi aveva paura, ecco, tutto lì. Mentre invece avevo un barboncino, quello non aveva paura di niente, assolutamente. Ma invece che questo qua l'hanno fatto tenere, ecco cosa è, anche se guava, quando ha giù visto da Brimani, ha giù provato a farglielo sentire cosa, ma se guava. Vabbè. Esattamente sono tutti uguali gli animali, capito? Però vabbè, è come le persone, c'è quello che ha paura dei suoni, c'è quello invece che lì è, non ci pensa nemmeno. Poi cazzo, è proprio invece che nel cannone non vera, vero, l'hanno fatto di lì, l'hanno fatto, quando ce li avevo in campagna si guava, se ne andava dentro e si nascondeva per non sentirli. Ehi, già lo vedi. Perché anche gli animali hanno paura, cosa devono fare, cosa fanno invece le vacche, le pecore e gli altri, non hanno paura di niente. Si stanno fermi a testa in basso e sono tranquilli loro, non hanno paura. Oh, infatti, questo qua, un giorno che ce l'avevo in campagna, ha saltato un muro, si ha detto che la lupa è fuggita, da voi, l'indopo domani sono tornati da su. Ma io penso anche gli animali che hanno sempre paura di questi rumori fortissimi, penso io. Magari non li fanno vedere per qualcuno che sollema al rumore, capito? E quando sono forti, gli alubini fanno vedere male a lui. Infatti la lupa ha preso Edo, Edo è tornato, dopo due giorni è tornato. Infatti l'ha chiamato un padrone, che l'aveva lasciato lì, e sono tornati tutti e due assieme, il bianco era avanti e la lupa dietro, quindi sono tornati tutti e due tranquilli, non sono uscito manco a cercarli, sono tornati da su, e infatti era così che tornavano. Si sono nascosti, poi ho calmato tutto, sono tornato. Sì, dopo che ho calmato tutto sono tornato, sì. Poi il sabato sono andato a trovarli e me li ho portati via, tutti e due me li ho portati via, perché non li voleva più, li ho portati via e me li ha già rigati ai nomi. Io a me mi piacciono gli animali, mi piacciono, però prima va bene, prima insomma l'ho avuto sempre in casa, io ho avuto il pastore tedesco e ho avuto anche quelli normali, per cui mi sono piaciuto, però adesso non più animali, poi non più. Mi danno fastidio perché mi devo tenere il conto quando ce l'hai, capito? Cioè ce l'hai, mi devo tenere il conto, per cui adesso a una certa età non è possibile, capito? Io lo so, sì. Purtroppo a me me l'ha lasciato mia figliura, anche in età di allora non potevo tenerlo. ma anzi non li voglio dire tutti e due, sino che aggiunteggio ho tenuto per un mese e mezzo e poi abbiamo trovato a chi darlo a Luffa. E là troviamo per agire. Lì l'ho passato, poi non era qua, per cui era fuori. Penso che andava male a tenere l'animale così. Non stava bene, non era carico. Ha fatto bene che l'ho fatto, vai. Almeno adesso è tranquilla. Lo so che dispiace, sembra così ma dispiace, però cazzo. Arrivato a un certo punto, non sei a casa tua, per cui dà fastidio, ecco. Infatti. Avrei voluto tenere a Lufo perché era brava e coso. A tenere lui, se mi pigliava, mi aveva dato una giubla via dentro. Lui ha buttato giù gli osso, è un po' faticoso, però se mi aveva aiutato da allora sì. Ma questo che c'è in casa, il tuo o di lei, la tua figlia? No, è di mia figlia, però sono io che ormai conosce a me come... Infatti che non vogliamo già che bene, ne ribrinca innanzi, ne ribrinca. Sono tutti e due, siamo rimasti tutti e due, e l'avrei tenuti, se mi aveva dato una mano anche lì, di là. Ha detto, lui l'avrà volta a tenere. E allora abbiamo trovato questo po' di alghero, l'abbiamo dato. Ecco, questa se fosse stata qua magari avrebbe aiutato. Ma siccome qua, lei non è qua, così che è chiaro che non la va bene, capito? Cioè, è giusto che sia stato lì, vai. Ha fatto bene, ha detto questo qua, finché capa, tienetelo tu e va bene così. Sarà contenta anche lì, vai. Sì, no, l'abbiamo fatto questo qua. Ogni tanto ci manda le fotografie, ci manda del cane. Il cane se ne va avanti e lui dietro in bicicletta, molte volte. Quando sta piovendo non ci viene. Ah, ci vedi che un bel di volte è buono appresso, non buono in Ungaria, che vuoi uscire, avevo rimanere in casa. È perché la conosce ancora, per cui chiaro che il lavoro lo capiscono, quando gli animali vuoi bene anche loro ci tengono. Tanto se ci tiene a uscire e se la lasci in casa ti distruggi o di vano ti distruggi. Il boccino che ci avevo io, cazzo piccolino, me l'avevamo dato che devo mangiare i latte lui, il piccolino, e l'abbiamo fatto grande, cazzo, era bravissimo, cazzo, e avevo la cabina, allora facciamo a senso piccolo, cazzo, però in casa non lo potevo tenere. Quando l'abbiamo lasciato giù, cazzo, in cabina, che noi lo scendevamo, saliva lui, mangiava, dopo se ne andava, rimaneva la bocca aperta anche per quelli vicino, cazzo, che lo vedevano salendo e scendendo. Sono abituato, no, se andava da solo stava attento. Forse adesso manco, vai, sentiamo sapere mia figlia, per cui la approfitto, vai. Grazie alla chiacchierata, ci sentiamo domani se coincide, ok? Ok Gianmarì, ci risentiamo alle prossime, ok? Beh, che un saluto, ciao Gianmarì, vi sentito e mi sento in casa, Pole, Squaletto, avanti, buonasera. Sì, buonasera, buona a te. Io sto chiudendo lo stesso, ma giù messo in nome d'uglio. Peggio per te, ma tranquillo, non preoccuparti, io no, c'avevo gente e non potevo entrare, capito? C'avevo gente, capito adesso, vabbè, vai tranquillo, non preoccuparti, devi fare dentro le passiglie e giovedì è arrivata gente. Non c'è problema, ci vediamo domani se coincide. Ciao Giovanni, c'è anche a te, vabbè. faccio una spazzolata su i piani alti. Ciao, a domani. Ci sentiamo, Maria, alle prossime. Ok, tranquillo, ciao ciao.